Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. La sintesi di quel che è accaduto in questi ultimi giorni di mercato di riparazione l'ha fatta stamane Adriano Galliani, entrando in Lega di Serie A a Milano. Ha detto: tutti parlano di fair play finanziario, ma poi spendono come pazzi, noi compresi. Poi ha aggiunto alcune considerazioni: abbiamo 11 infortunati e uno squalificato. Nel football americano si sa che hanno sempre 10 infortunati di base e quindi hanno 3 giocatori per ogni ruolo. Nel calcio attualmente ce ne sono 2 per ogni ruolo, spero non si debba arrivare a 3. Si giocava spesso anche prima, solo che ora sta cambiando il gioco, che è più fisico. Oggi su ogni pallone ci sono più contrasti. Vabbè, è una, diciamo che è una disamina parziale, vista da una certa angolazione. Da un'altra angolazione, per esempio, qualsiasi medico sportivo, qualsiasi preparatore atletico, qualsiasi allenatore, e lo ha ricordato ancora sabato la Gazzetta dello Sport con una bella inchiesta, basterebbe, cioè tutte queste categorie che vi ho detto di professionisti sostengono che basterebbe una seria preparazione estiva di 20 o 25 giorni come si faceva una volta, senza cominciare ad andare a sfidare il Chelsea o il Real Madrid a fine luglio dopo una settimana di corsette in montagna. Basterebbe questo per evitare la gran parte degli infortuni, che sono cresciuti del 30% negli ultimi tempi. Ma il problema qual è? Se si comprassero meno giocatori, come farebbero a sopravvivere questi poveri agenti procuratori che su ciascuno di questi affari estivi, invernali, primaverili, autunnali beccano quando gli va male il 10%? E siamo sicuri che questo 10% degli agenti e dei procuratori in realtà non nasconda altre magari piccole percentuali presso qualcuno in qualche società o magari invece in tutte? Queste sono domande che siamo liberissimi di farci. Io per esempio me la faccio. Tu cosa ne dici, Fabio Tavelli? Ma io temo anche ad avere la risposta, però non avendo prove provate, no, certo. mi tengo il dubbio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno Fabio, senti, teniamoci questo dubbio. Io poi, ti leggo subito al volo una formazione che è apparsa stamane anche sulla Gazzetta dello Sport, ma che Franco Piantanida ha elaborato anche con 2 rincalzi, cioè la formazione del Milan da agosto a oggi, cioè i 13 giocatori nuovi, 11 più 2, che è Amelia, Le Grottaglie, Iepes, Papastatopoulos, Didac, Vilà, ma ci sono 2 rincalzi che sono Bruno Montelongo e Rodrigo Elai. A metà campo ci sono Emanuelson, Van Bommel e Boateng, e davanti Robinho, dietro alle punte Cassano e Ibrahimovic. Se invece vogliamo andare a vedere la Juventus, da agosto ha fatto una squadra nuova di 14 che è così articolata: Storari, poi Motta, Bonucci, Barzagli, Traoré, poi Krasic, Aquilani, Pepe, e poi Quagliarella, Martinez, Toni, Matri. Ce n'è persino uno in più. Con questo piccolo particolare, che la Juve da luglio ha già speso 46,5 milioni. Per i riscatti a giugno dovrà pagarne 50. E quindi, se per caso deciderà di riscattare tutti questi giocatori, nel prossimo mercato ci sarà questa piccola somma da sborsare. Mi pare però che anche all'estero, Fabio, e così arriviamo al nostro terreno di competenza, non vada molto diversamente. Anzi, il mercato di Premier League ha battuto ogni record. È vero che era stato molto basso in estate, ma adesso con 360 milioni di euro ha strabattuto ogni record di gennaio. Credo che quando Galliani parla di pazzia, soprattutto questo termine vada rapportato a quello che è accaduto in Inghilterra negli ultimi giorni, perché effettivamente nelle ultime 2 stagioni il calcio inglese si era dato una discreta regolata, nel senso che aveva soprattutto il Chelsea guidato questa ondata di, non dico pauperismo, ma diciamo così, di un mercato un po' più saggio. È bastato non vincere la Champions League per un anno, o quantomeno non essere competitivi così fino in fondo, e gli inglesi hanno ricominciato a spendere in maniera pazzesca. Se consideriamo il trasferimento di Fernando Torres al Chelsea, ma dobbiamo anche metterci quello di Carroll e di Suarez al Liverpool, stiamo parlando di una manovra finanziaria. Sì. In un anno nel quale il mese di gennaio è stato veramente clamorosamente superiore a quello di agosto per quanto riguarda i trasferimenti, perché non dobbiamo nemmeno dimenticarci che comunque si sono mossi giocatori importanti, si è mosso Adebayor, che è andato al Real Madrid. Ora poi bisogna vedere le formule con le quali questi trasferimenti vengono fatti, però insomma stiamo parlando di capitali pesanti, stiamo parlando di giocatori pagati tantissimo, dalle varie società, e quindi quando Galliani dice parliamo tutti di fair play ma poi spendiamo come pazzi, ha ragione. Devo dire che questa volta mi pare che il Milan abbia fatto una politica molto diversa, nel senso che quello che ha speso il Milan è infinitamente più basso rispetto a quello che hanno speso gli altri, perché certo, comunque il Milan ha preso nella maggior parte dei casi giocatori in scadenza di contratto, giocatori dai quali ha rilevato il contratto e giocatori dei quali tendenzialmente a giugno può liberarsi a zero. Certo, tu hai ricordato il grande affare del Chelsea, o meglio, quello che così è stato presentato praticamente da tutta la stampa e da tutti i commentatori. Il grande affare, dal mio punto di vista, l'ha fatto il Liverpool. Ma in questo momento sembra di sì, perché vendendo Torres ha preso Suarez e Carroll, che non mi sembrano proprio due attaccanti di seconda fila. No, anzi, tra l'altro Carroll è la grande speranza inglese per vedere un centravanti sopra il 1,90 come ce n'erano una volta. Io poi adoro Fernando Torres e quindi non neanche sotto tortura dirò che Fernando Torres è in una fase un po' particolare della sua carriera, però tra infortuni e un mondiale andato malissimo, effettivamente questo era un periodo nel quale Fernando Torres si poteva vendere. Poi ripeto, io trovo che quando nel Liverpool giocavano a questo punto lui e Gerrard a buone condizioni, il Liverpool era veramente un'altra squadra. Trovo anche che il problema adesso di Ancelotti sarà di far convivere giocatori come Anelka, un giocatore come Drogba e uno come Fernando Torres, però trovo anche che poi tutte le difese avversarie avranno il loro bel grattacapo. Mi pare di poter dire però che la vera notizia sia che Abramovic è tornato a spendere. Certo. E questo è un pericolo, perché di solito quando i grandi ricchi cominciano a spendere poi ci sono i non proprio grandi ricchi che cercano di imitare e allora lì si aprono le voragini nei bilanci. Domani proverò a chiedere a Marco Bellinazzo che fine sta facendo questo fair play finanziario di Platini. A te volevo ancora, in chiave mercato, poi cambiamo argomento dopo l'intervallo, chiave mercato chiedere un breve commento su questa fine triste di Camoranesi, no? Che è stato sbolognato a Stoccarda. A Stoccarda credo abbia giocato una partita o due e poi, nonostante lo Stoccarda sia in fondo alla Bundesliga, gli hanno detto grazie lo stesso e adesso sta cercandosi una squadra in Argentina. Fa presto a tramontare la gloria, eh? Sì, fa presto ad arrivare, a volte fa presto anche a tramontare. Io trovo che lui abbia, come dire, pagato anche un problema caratteriale. Non è un giocatore facile, non è un giocatore morbido, probabilmente anche dal punto di vista fisico ha avuto qualche problema che non ha risolto, ma ripeto, mi pare più un problema caratteriale. A pallone Camoranesi, che ce lo ricordiamo, giocava molto bene. Sì. Poi è successo questo. Devo anche dirti che dipende sempre dalla scuderia nella quale stai. Ci sono giocatori che attraverso procuratori molto bravi o molto furbi o molto scalpi o molto introdotti, fate voi, appiccicategli voi l'aggettivo che volete, una squadra la trovano sempre. Ci sono altri giocatori che magari fanno un po' più fatica. Certo, allora facciamo il primo intervallo di giornata per sentire come va sulle strade. Un messaggio per Fabio Tavelli che arriva da Valenza, tra l'altro un tifoso del Napoli palesemente. Volevo chiedere un pensiero sul Napoli. Per me domani a Verona venire via con un punto sarebbe già buono, scrive Alessandro da Valenza. Beh, non occorre una grande competenza internazionale per una domanda, per una risposta del genere. Vero Fabio? In compenso questo introduce magari una risposta che potrebbe interessare anche a chi ti sta intorno in questo momento. Ma chi mi sta intorno sono tutti i tifosi della Salernitana. Salernitana, non del Napoli. Sì, perché a Napoli andrò più tardi, andrò verso le 5 del pomeriggio e sarò fuori grotta stasera. Ma io trovo che il Napoli debba provare a vincere, per dei domani. Poi è chiaro che il Chievo è una squadra che non ti molla nulla, non ti regalerà nulla, senza la Vezzi non sarà facile. Però davvero, insomma, se il Napoli vuole alimentare questo sogno, che è un sogno, non è una chimera impossibile, ma è molto difficile, deve provare anche a vincere. Poi si può anche non vincere, però credo che sia l'atteggiamento, cioè non, questo è l'atteggiamento del tifoso che il giorno prima dice ma prendiamoci almeno un punto, poi le partite si possono anche perdere. Ecco, quello che credo e spero per il Napoli e per i suoi tifosi, che la squadra non vada a Verona per prendersi semplicemente un punto, insomma, che vada a giocarsela per vincere. Poi è chiaro che può succedere qualsiasi cosa, ma il punto non è veramente più una volta il punto in trasferta. Si diceva fa media scudetto, adesso non fa più media scudetto. Prima dei tre punti, sì, adesso evidentemente adesso no. È una sconfitta. C'è una domanda, c'è una domanda ulteriore di questo ascoltatore Alessandro a Valenza, che dice se Sky trasmetterà la Formula 1. Guarda, anche se lo sapessi, comunque non lo rivelerei, perché sono notizie che riguardano piani industriali. Altri settori, altri mondi, piani industriali, eccetera. E a noi due personalmente ci ha sempre lasciato discretamente freschini, se non proprio gelidi. Senti, Robin Müller, che storia è questo Robin che prende per il collo il Tedeschino? Guarda, stamattina leggevo su Marca non c'entra nulla, ma mi fa pensare a quelle cose che possono succedere nelle squadre. Leggevo su Marca stamattina che Pau Gasol, grande giocatore spagnolo dei Los Angeles Lakers, ha scritto sul suo blog che la partita della notte è stata una sfida tra Kobe Bryant e i Celtic, nel senso che il suo compagno ha giocato praticamente da solo contro i Celtics e ha cercato di vincerla da solo. Non una cosa inedita per Kobe Bryant. Succede che nel corso di una partita a volte un giocatore te la passa e altre volte non te la passa. E succede che un giocatore un po' sanguigno possa anche, non dico non mandarle a dire, ma fare arrivare certi messaggi. Ora, che si arrivi quasi al cazzotto, secondo me è testimonianza di una situazione un po' complessa, che Van Gaal ha liquidato con un "noi olandesi siamo caratterialmente forti, sanguigni e quindi così". Non credo che i tedeschi lo siano di meno, per cui credo che Van Gaal abbia un problema adesso, perché era Robben che non la dava mai a nessuno l'altro giorno, mi pare. Müller l'ha mandato a quel paese e Robben gli ha messo le mani addosso in partita. Tra l'altro, è successo in partita, ci sono le immagini, ci sono le foto, è tutto documentato, andate su YouTube e lo trovate. Ma poi la cosa vera è che Müller fa un assist per il gol di Klose, nel quale praticamente rinuncia a fare gol, quindi dà quasi una sorta di schiaffo morale al suo compagno. E Robben non la passa mai, non l'ha mai passata. Robben, se può, le azioni tende a concluderle. Credo in generale che tra Müller e Robben chi avrà la vita più lunga al Bayern di Monaco sarà Müller, che si conferma essere, secondo anch'io, me un grande giocatore. Un grande giocatore. Chi avrà vita più lunga tra Valdano e Mourinho a Madrid è un'altra buona domanda, ed è un po' la domanda del giorno in Spagna. Per la verità, la domanda di queste settimane. Ma è ovvio che questa sconfitta, tra l'altro anche abbastanza meritata a differenza di altre, no? A Pamplona con lo Osasuna ha molto cambiato i rapporti di forza all'interno, ma soprattutto ha orientato ormai le scelte del Real, che realisticamente Real non è male, in questo momento non può che ragionare in chiave di Coppa, insomma. Ma guarda, due cose. La prima è che tra un dirigente e un allenatore solitamente è più facile resistere a un dirigente, se è quel tipo di dirigente che è Jorge Valdano. Da un altro punto di vista, Mourinho ha dato una spiegazione che io trovo poco accettabile, nel senso che può essere parzialmente vera ma non completamente. Lui ha detto: io non ho giocatori in grado di giocare 3 partite a settimana. In gennaio abbiamo giocato 9 partite, era normale che calassimo. Trovo che non sia così in realtà. Lui ha anche detto: il Real Madrid spesso è uscito agli ottavi o ai quarti di Champions League negli ultimi anni, quindi non ha l'abitudine a giocare 3 partite a settimana. Secondo me la rosa del Real Madrid ha l'abitudine di giocare anche 3 partite a settimana. Ho il sospetto che le sue rotazioni siano state tali per cui questi giocatori siano stati leggermente utilizzati un pochino troppo, e che quindi lui non si sia fidato degli uomini che ha in panchina. Ora, lui è un grande allenatore, lui ha ragione perché vince. Devo anche dire che certe volte potrebbe anche fare un minimo di mea culpa, perché il triplo cambio al 60esimo è qualcosa che credo qualsiasi scuola di Coverciano, ma non solo, sconsigli a tutti gli allenatori. A chiunque, certo. A chiunque. E a qualsiasi livello, non c'è alcun dubbio. Esatto. Fabio, la domanda finale ti viene rivolta da Sara. Sara scrive: ma perché Tavelli viene a Napoli? perché è una città meravigliosa, ogni tanto mi sembra giusto farci una capatina. Perfetto. Salerno, Napoli, insomma, domani Caserta, un'escursione come si deve. Grazie Fabio, un abbraccio, ciao a tutti. Chiudiamo questo collegamento, non accantoniamo l'argomento del calcio internazionale, perché mi pare che gli spunti siano rilevanti, soprattutto appunto per questa operazione Chelsea, per il fatto che la Premier League ha speso senza pudore in questo, no? Come si è detto, in questo mese di gennaio, investendo più di quanto non aveva investito in un mercato estivo, che era sembrato l'insegna della serietà, dell'autocontrollo e diciamo pure della proiezione in chiave di fair play, e invece sono passati 6 mesi ed è subito arrivata la smentita. La saggezza non è di casa nemmeno a quelle latitudini. Un'altra notizia di calcio internazionale è che qui ci vorrebbe Nicola Roggero, magari più tardi lo sentiamo, perché Ryan Giggs è stato votato come il miglior calciatore di sempre dello United e insomma, in base a questo referendum Giggs ha battuto Cantona secondo, George Best terzo, solo quarto solo quarto Bobby Charlton, e poi a seguire Cristiano Ronaldo, Scholes, Beckham eccetera. Io credo che, come sempre in questo genere di esercizi, prevalga l'attualità, cioè prevalga la contemporaneità, per cui intanto Giggs gioca da 20 anni con quella maglia e quindi la contemporaneità già è relativa, diciamo che ci sono già generazioni che lo hanno visto giocare e lo hanno visto fare indubbiamente grandissime cose con la maglia dello United. Da lì a mettere in fila non tanto Cantona, ma a mettere in fila Best e Bobby Charlton, beh, insomma, ho l'impressione che insomma, questi, anche lassù questi referendum lasciano un po' il tempo che trovano. Siamo in vigilia di campionato, non solo per le partite di domani, ma anche e soprattutto per l'anticipo di stasera, che poi è anche la partita clou di questo turno di campionato, per l'appunto. E allora, la vigilia del Milan, nelle parole di Allegri. Sono molto bravi nelle ripartenze e quindi bisognerà fare una partita di grande attenzione, anche perché per noi credo che sia la quinta o la sesta partita che giochiamo ogni 3 giorni, e soprattutto veniamo da una partita dove abbiamo giocato un tempo in 10, quindi ci vorrà molta testa, ci vorrà molto spirito di sacrificio, perché credo Catania, Lazio e Genova sia un trittico di partite molto importante per il campionato. E il problema non è gestire, il problema, tra virgolette, ci sta un problema, è fare la formazione, e la formazione la dovrò fare, perché poi andiamo in campo e come è stato fino ad ora, le scelte toccano a me, quindi quelli che saranno fuori dovranno accettare tranquillamente. Siamo un gruppo che abbiamo un unico obiettivo, quello di cercare di vincere qualcosa di importante. E questo è indubbiamente oggettivo ed è vero, è più facile fare delle scelte difficili quando stai in testa alla classifica che non quando sei in difficoltà, ma accidenti, che scelte quando sono 30, lo dicevo prima, 30 i giocatori disponibili. Significa, come diceva un tempo Bagnoli, questo Bagnoli lo diceva già 10-12 anni fa, per la verità, non solo adesso, che lui già allora non si sarebbe più sentito di guidare una di queste grandi squadre di Serie A, perché diceva: io dovrei lasciarne fuori 7-8 anche nella partita del giovedì. Dice: questa sinceramente non me la sentirei, ne è passata di acqua sotto i ponti, poi mica tante, perché la situazione non è migliorata e di rinsavire non se ne parla. Più tardi sentiremo la vigilia di Reia, visto che la partita è Milan-Lazio. Adesso diamo spazio a un ascoltatore per venire all'intervallo, che è Domenico da Bari. Buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, niente, praticamente sono un tifoso dell'Inter, volevo chiederle, ma questo Platini forse con questo fair play finanziario ce l'ha solo con le squadre italiane? Perché probabilmente l'Inter non si è rinforzato quest'anno anche per questo. Aspetto una risposta, l'ascolto per raggio, grazie. Una delle tante congiure contro l'Inter in questi ultimi anni, evidentemente a parer suo è firmata Platini. Guardi, io so questo, che il discorso del fair play finanziario di Platini è nata, l'ho ricordato ancora qualche giorno fa, è nato dalla finale Manchester United-Chelsea di 2 anni e mezzo fa in Coppa dei Campioni. All'indomani di quella finale, Platini, dopo aver consegnato la Coppa dei Campioni allo United, disse: io per la verità sarei un po' stufo di premiare i club travolti dai debiti e che un giorno o l'altro verranno chiusi per fallimento. Da lì è partita questa operazione. Se poi lei pensa che nel mirino ci sia soltanto l'Inter, e questo mirino al momento gli ha impedito di rispendere un altro sacco di quattrini anche nel mercato autunnale, anzi invernale, è libero di farlo. Noi andiamo a sentire come va sui mercati. Rientriamo con molti vostri messaggi, per esempio che riguardano in particolare il fair play finanziario, poi forse conviene che li metta da parte per Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che se ne intende più di me, che può dare certamente risposte più attendibili, più articolate. Secondo Alberto, comunque questo fair play finanziario, a leggere le spese del Chelsea, sta andando al macero, il sospetto c'è, è legittimo infatti. Sentiamo cosa ne pensate in generale. Per esempio Angelo da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, volevo solamente una parola di conforto per la Sampdoria, che è oggettivamente la squadra che è uscita più malconcia da questo mercato di riparazione. Per gli altri invece per noi è un mercato di bocciatura, e il dopo Marotta, che nel frattempo è diventato anche dopo Gasperini, si preannuncia veramente triste. Non capisco le ragioni per cui un uomo di parola come il dottor Garrone abbia portato la Sampdoria a questi livelli. Noi speriamo invece solo nel fair play finanziario, perché altrimenti non abbiamo altri motivi tecnici per appellarci a questa Serie A, visto che oggi è la notizia che il nostro attacco con Guberti 5 gol, Maccarone 2 e Macheda 0 è il peggiore della Serie A. Volevo sapere, avere una parola di conforto da parte sua. E no? Angelo, la parola di conforto non è un granché. La parola di conforto con 27 punti non c'è da stare molto molto tranquilli, secondo me, con questo attacco. È vero che la Sampdoria ha una buona struttura di squadra, ha una signora difesa, ma facendo fatica a far gol in questo calcio, no, da 3 punti in cui conta vincere, molto più che pareggiare. Insomma, da star proprio tanto tanto tranquilli no. Io credo che quell'improvvisa sfuriata di Cassano nei confronti di Garrone abbia prodotto guasti molto più profondi e molto più proiettati nel futuro di quelli che si erano capiti in un primo momento. Garrone era già un po' avvelenato, diciamo pure avvelenato per la fuga del Neri e soprattutto di Marotta, per la fuga, per la scelta professionale di del Neri e soprattutto di Marotta, per cui questo ha ulteriormente complicato le cose, perché ha finito per, non dico svendere Pazzini, ma certamente per darlo a condizioni più favorevoli di quello a cui l'avrebbe potuto cedere forse già in estate, allora a quel punto, avendo però la possibilità di prendere contropartite tecniche che invece poi non sono arrivate, per cui un grande conforto non mi sento di darglielo. Da Taranto ha chiamato Massimo, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Una domanda e una riflessione. La domanda è, vorrei capire perché in Italia alcuni presidenti pensano di fare i tecnici non avendo le capacità. Parlo di Parini o Berlusconi l'anno scorso. Cioè, il fatto che mettono i soldi non significa che ci debbano capire qualcosa di calcio. La seconda riflessione è che ho visto l'ultima azione del Palermo in cui Lanzaretti mi sembra tira e la palla a un certo punto sbatte sul tacco di Maicon e va sulla gamba di Giulio Cesare. Sì. Quindi voglio dire, il caso e la fortuna del calcio girano. Infatti io mi ricordo un bellissimo libro di Baricco in cui parla di un incontro tra Becker e Piolin, in cui Becker sbaglia una palla facilissima, annullando le ore, la giovinezza a giocare a tennis. Allora, se Becker, per dire, sbaglia lo smash innocuo, butta la rilele, cioè uno smash che se lo rifà 200.000 volte lo mette dentro, perché Pastore non dovrebbe rendere il palo, Lanzaretti non potrebbe sbagliare? Cioè, certe affermazioni di alcuni presenti mi sembrano assurde. Grazie. Sono d'accordo con lei, Massimo, a parte le sue citazioni dotte che rendono le sue opinioni, le sue osservazioni ancora più credibili, però lei ha proprio pescato l'episodio che domenica mi ha più colpito in tutta la giornata, anzi in tutto il fine settimana, che è quella pazzesca carambola sul tiro al volo di Balzaretti, perché a prima vista a velocità normale non si capisce assolutamente cosa succede, se non che questa palla viene respinta. Balzaretti calcia fortissimo a colpo sicuro da 7-8 metri dalla porta e la palla esce, anziché entrare esce, sembra. Poi quando si va a scomporre a rallenti l'azione, si vede che la palla prende prima uno stinco o una scarpa di Maicon a velocità folle, da lì come una scheggia impazzita va a prendere una gamba di Julio Cesare e poi esce, e quelle sono le circostanze per cui appunto lei dice quella partita Cioè, se a questo aggiungiamo che Pastore si è mangiato un gol pazzesco, quello in cui ha colpito il palo, e poi ha sbagliato un rigore, queste sono le partite in cui quando poi appunto un presidente come Zamparini dice la colpa è di Rossi che non sa fare la fase difensiva, ti cascano veramente le braccia, perché era una partita segnata evidentemente per il Palermo. Gianluca ha chiamato da Rimini, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senta, io la chiamo più che altro per un'osservazione, volevo chiedere spunto anche a lei. Si parla spesso di molte partite in pochi giorni, sentivo prima Allegri che diceva tre partite in sei giorni, in otto giorni, così. Ma non si riesce a notare che, almeno perlomeno io ho notato questo, e volevo chiedere chi è che decideva calendario o meno, anticipi e posticipi. È la terza volta che in questa stagione la Juve riesce a giocare il giovedì, la domenica, il mercoledì e il sabato, il che vuol dire giovedì, sabato, otto giorni. Tutte le altre squadre che più o meno potrebbero competere, cioè la Juve potrebbe competere con loro per posizioni rilevanti, hanno la fortuna di giocare dal mercoledì alla domenica. Questo comporta due giorni di o riposo oppure allenamento attivo in più. Questa è la terza volta che succede, allora volevo sentire con lei se sapeva come venivano gestiti e chi gestiva anticipi e posticipi, tutto qua. Vengono gestiti dalla Lega, e in cui sono rappresentate tutte le società, poi a turno tutte le società si lamentano delle scelte, delle decisioni, e in questo momento io garantisco che non avevo sentito la mente della Juve, ma ho sentito la sua, non so quanto fondata, non so se c'erano possibilità di fare meglio, di fare anche peggio, non ne ho la minima idea. Io credo che già star dietro a sapere che partite si giocano sia insomma, rischi di portarti dritto in manicomio, almeno nel mio povero caso. Tenga conto che questa follia di questo momento è cominciata lo scorso venerdì con una partita in diretta di Serie B e finirà solo il prossimo lunedì, cioè dopo 11 giorni, con un'altra diretta di Serie B. In mezzo, in tutte queste sere, c'è sempre almeno una partita di calcio. 4 volte di Serie B e 7 volte di Serie A. Poi io capisco che chi bada al particolare della sua squadra possa trarne ulteriori considerazioni, mi faccia grazia, perché ripeto, già l'idea, già dover tenere dietro al fatto che stasera gioca il Milan con la Lazio, che domani giocano tutte meno il Bari e l'Inter che giocano giovedì, e poi già non ricordarsi per esempio quali sono i due anticipi di sabato e i posticipi di domenica, secondo me già dimostra che questo calcio, come dicevo all'inizio, come ci metto dentro gli agenti, le loro percentuali, le loro secondo me è tutta una cosa che approfitta del fatto che tanti anni fa vennero chiusi i manicomi. Flaviano da Milano, buongiorno. Volevo dire in merito al discorso degli infortuni, soprattutto muscolari, che oramai diciamo quasi tutte le società lamentano, eccetera eccetera. Allora, io ho avuto una grossa esperienza a Trieste, sono Flaviano Tonellotto, e quando ho cercato di inserire una alimentazione naturale anche adeguata e proporzionata, no, agli impegni eccetera eccetera, no, sono stato deriso. Allora, io so che se si segue una certa alimentazione è anche dovuto alla proporzione degli impegni, no? Perché aumentano sempre di più le partite, qui, no? Ci sono esigenze, Coppa Italia, certo. Europa, eccetera, eccetera, no? È importantissima l'alimentazione, ma molto importante. Ecco, io direi che molte società dovrebbero fare molto più tesoro di, però non un'alimentazione che segue gli sponsor, attenzione, no, un'alimentazione no, che sia adeguata per lo sforzo e per quello che dà fisicamente il ragazzo, perché sennò il ragazzo si trova, sì, io una non volta credo, in contrazioni, una volta di qui, una volta di là, insomma, diventa. Io non credo molto che sia, non credo che possa essere soltanto un problema di alimentazione. Credo che le società, anche prima del suo avvento a Trieste, insomma, più o meno qualche nozione l'avessero. Lei poi nel calcio ha portato molte altre novità, se non ricordo male, non solo quella dell'alimentazione. Ma sì, a Trieste ancora se ne parla, insomma. Sono stato abbastanza così bistrattato. Bistrattato, sì, vabbè, sì, diciamo discusso. Diciamo bistrattato. Diciamo poi bistrattato. Vabbè, ci sono motivi molto, molto profondi politici, soprattutto. Sì, vabbè, c'è sempre. Quando qualcuno viene bistrattato, è ovvio che poi c'è sempre qualche motivo politico o qualche congiura che nel frattempo si attrezza. Io la ringrazio del suo intervento. Visto che è riuscito a prendere la linea questa volta, io, se crede, in una prossima occasione possiamo parlare di come andò quella sua avventura a Trieste e del perché la sua avventura fu bistrattata, al di là di questa osservazione sull'alimentazione nel calcio, che potrebbe essere una delle componenti per migliorare da quel punto di vista. Grazie. Diciamo che, anzi, mi farebbe molto piacere un discorso. Perfetto. Un discorso un po' più approfondito. La ringrazio. Chiederò alla brava donna Rosa del Centralino di ricreare un contatto con lei nei prossimi tempi. Grazie all'ex presidente della Triestina Tonellotto. Sentiamo velocemente Andrea, che ha chiamato da Varese. Buongiorno. Buongiorno. Faccio una premessa rapidissima. Io non me ne intendo di calcio. Non lo guardo mai e non ho sentito l'ultimo quarto d'ora di trasmissione, ma volevo intervenire perché durante le vacanze natalizie ho visto in TV un riferimento al Milan video che si allenava a Dubai. Sì. E facevo questa considerazione: dall'inverno gelido nostro alle sabbie di Dubai, li ho visti correre sulle sabbie di Dubai, ci sono pochi dubbi che al rientro questi in 11, 12 o 13 che siano si fanno del male, insomma. È tutto qui. Non c'è un'equazione diretta, altrimenti non l'avrebbero fatta. È una variante discutibile quella che viene soprattutto perché il periodo di soggiorno è breve, ci sono grandi squadre, ci sono tanti club del nord Europa invece che la preparazione la fanno per intera da quelle parti prima di ripartire con la stagione, e questo vale per squadre russe, squadre svedesi, squadre norvegesi, ma anche per i tedeschi, che hanno una sosta leggermente più lunga della nostra. La nostra era brevissima, e sull'utilità di quella, sulla funzionalità proiettata di quella sabbia si può discutere, ma che sia un errore a prescindere no, perché adesso non possiamo, cioè c'era già l'ex presidente della Triestina Tonellotto che si era inventato i menù che avrebbero cambiato il calcio, adesso non è che possiamo pensare che tutti i medici sportivi o i preparatori che sono nei club siano dei deficienti, no, immagino quel minimo di rispetto gli vada portato. Torniamo a Nicola Filippone e alla sua rubrica Sembra Ieri, per scoprire che cosa è successo un certo primo febbraio. Sembra Ieri. Primo febbraio 1981. Non è un debutto semplice quello di Picchio De Sisti su una panchina di Serie A. La sua Fiorentina lo ha scelto per sostituire Paolo Carosi, con l'obiettivo di rilanciare i viola, relegati al terzultimo posto. A Firenze arriva la Juventus di Trapattoni, che si impone per 1-0 con gol di Tardelli. Dopo il KO interno, però, la Fiorentina di De Sisti, trascinata da Antonioni e Daniel Bertoni, infilerà una sorprendente serie di 16 risultati utili consecutivi, risollevandosi fino al quinto posto finale. Perderà di nuovo solo all'ultima giornata. Ancora contro la Juve a Torino, con un gol di Cabrini che darà ai bianconeri lo scudetto numero 19. Devo ringraziare Marino, che scrive da Nole, provincia di Torino, per correggermi la pronuncia Osasugna. Ha perfettamente ragione, si legge invece Osasuna senza il GN, e mi spiega che la ragione è semplice, perché questa è una parola basca che significa salute e va pronunciata in quella maniera, Osasuna. Cercherò di ricordarmelo davvero, grazie. Aurelio ha chiamato da Milano, però lo terrei un attimo in attesa, perché sono in debito con gli ascoltatori, non dico di fede, perché a me la fede non piace in queste cose, di colore laziale della vigilia di Reia. Non eravamo in grandissima condizione ultimamente, l'abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato, adesso abbiamo trovato lo spirito giusto, lo spirito battagliero, e la squadra ha ripreso un po' il vecchio cammino, almeno questo me lo auguro, perché è chiaro che abbiamo bisogno ancora di altre verifiche. Certo che non è a Milano che devi andare a vincere, questo sicuramente, però noi come concetto, come mentalità, bisogna andare a Milano a cercare di fare la partita. Non puoi rimanere in attesa delle iniziative del Milan, perché da San Siro vieni fuori solo se proponi gioco. Non puoi fare nei 90 minuti avere un atteggiamento difensivo, perché prima o dopo il gol te lo fanno sicuramente. Vediamo stasera 20:45 Milan-Lazio anticipo di questa giornata di campionato. La prego, scrive Max da Trieste, ci risparmi tonnellotto, la vita è già complicata con Fantinella. Mentre Giacomo, sempre un altro triestino, rincara, dice: a Trieste siamo passati dai menù dai salvifici menù macrobiotici di Tonellotto al pubblico virtuale di Fantinelle. Saremmo anche la città del Paron. Serve aggiungere altro, Giacomo, a tutta la mia solidarietà, tenendo presente però che con Tonellotto la società era andata, e mentre invece Fantinelle, magari con qualche iniziativa che si può discutere, ma insomma la società la sta tenendo a galla e come, quindi un po' di differenza mi sembra che ci sia. Valentino da Udine infierisce, dice: Tonellotto è il nostro idolo di Udine, ci conceda questa piccola debolezza campanilistica. Aurelio ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, complimenti per la trasmissione, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io sono uno sportivo interista e ho fatto delle considerazioni, soprattutto sui falli subiti e falli fatti. Quando c'è un intervento, perché non si fermano tutti e due i giocatori? Ossia, c'è un fallo che viene subito da un giocatore e sta fuori perché si è fatto momentaneamente male, anche il giocatore che ha fatto il fallo si ferma, sta fuori fino al rientro dell'altro giocatore. Ma perché? Ma mi dica perché? Per stabilizzare le due squadre. Stabilizzare le due squadre. E allora, è quello che simula? E quello che simula viene tenuto fuori. Allora, se c'è la simulazione... Mm. Ma io dico il fermo momentaneo. Sì, no, ho capito che è momentaneo, ma poi mi spieghi che senso ha? Cose più gravi sui infortuni che io mi ricordo adesso il giocatore della Juventus Tonellotto, vabbè. No, perché oggi è già la giornata di Tonellotto. Aveva rotto il perone o la caviglia a Figo, il giocatore della Juventus, del centrocampista del Nedved, esatto. E è rimasto fuori quanti mesi? Io direi Chi? Che in quel Figo era rimasto fermo, aveva avuto uno stop. In quel caso io direi che anche il giocatore che ha fatto il fallo si ferma, non gioca anche lui. È una questione di equilibrio. Gli mettiamo le ganasce, come si fa per le auto in sosta vietata, Aurelio, cioè cerchiamo di essere seri. Ora esistono dei traumi storici. Quando Goicoechea ruppe Maradona, ma stiamo parlando di un evento che fece epoca e che risale al 1983 in Spagna, quando Goicoechea ruppe Maradona fu squalificato credo per 18 giornate, che furono quelle che occorsero a Maradona per rientrare a giocare. Fu, ripeto, un fatto storico, perché l'intervento era davvero assassino e fatto per rompere Maradona, purtroppo riuscito. Il calcio mi sembra già abbastanza complicato, mi sembra che lo abbiamo già abbastanza complicato, pensare che sarebbe di una semplicità assoluta. Ci pensa l'arbitro, se uno ha fatto un fallo che merita una sanzione, non esce lui insieme a quello che si è fatto male, esce perché lo caccia fuori l'arbitro, giustamente, oppure uscirà la volta che ne fa un altro perché nel frattempo l'ha ammonito. Effetto Tonellotto, secondo me. Leonardo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. In considerazione del fair play finanziario, direi che davvero sarebbe, se ben applicato, una cosa sacrosanta, perché ricordiamo tutti, ad esempio, non me ne vogliono i tifosi laziali, ma una gestione Cragnotti fatta di grandi esborsi, grandi investimenti e grandi spese, poi raggiunto anche uno scudetto, però a discapito di magari una società che magari i contributi li avevano pagati, quindi verissimo. Secondo me, ecco, sentivo lei settimana scorsa disquisire con il suo collega del Sole 24 Ore del fatto, cioè, compri in base a quanto guadagni, però è anche vero che se non guadagni non compri, quindi non vinci. Non potrebbe invece magari instaurarsi un circuito in cui e i presidenti cominciano ad investire sul vivaio che costa meno, perché ricordiamoci che Messi è costato 25.000 lire, sì, e ricordiamoci, sì, che Pedrito viene su e l'hanno pagato poco, ma quello è un percorso, ecco, virtuoso che presuppone anche un tipo di investimento diverso, e quello iniziale per quel percorso virtuoso, l'investimento iniziale è in cultura e cultura sportiva dura, duretta, non proprio merce che si trova al supermercato. Grazie Leonardo, andiamo a Modena, chiudiamo con Andrea oggi, buongiorno. Buongiorno, dica. Io volevo parlare della Juve, che secondo me ultimamente, anzi nell'ultimo anno, cioè, sta sbagliando completamente la dirigenza negli acquisti e anche nell'allenatore, per scarsi risultati, e questo secondo me è un problema della dirigenza, che non è capace di creare una squadra, secondo me. Poi dopo... Non è da escludere. Grazie Andrea, c'è un suo omonimo collegato da Firenze. Andrea, dica, buongiorno. No, non c'è più Andrea, e allora, visto che l'orologio ci sta indicando le 14:56 e 25 secondi, c'è il tempo per salutare Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadori in regia e darvi appuntamento a domani.